dove non andiamo lì, e ci portiamo via tutto, palo e antenna. Stacchiamo la radio e facciamo la clacca con la corda. Ma quella è la casa sua, lui non c'è qui in casa, però già torna. Ti ho anche detto, quasi quasi ti devo guardare l'antenna. Se lì già rimane lì non ti preoccupare, anzi magari facciamo anche un favore a staccargliela, così quando viene qui in Sardegna se la porta su. Ma no, non credo, lui è, ha capito che è pensato al computer, che ormai è tanto lì, non penso che ne abbia voglia più. Io cosa fare il computer, ma lui sono arrivato a chattare con tutte quelle che ci sono. Grazie, stasera mi ha fatto vedere, cioè uno ha scritto in pratica ha preso petrolio a un'altra, hai capito? Aiuto, guarda, siamo a posto già, ragazzi, una dice troia all'altra, ragazzi, per accaparrarsi il primo che trova, ragazzi. E poi sono per soldi lo fanno, capito? Perché è più vecchio del mondo, sempre lì siamo, quando decidono di fare quello, cosa ci vuoi fare? Poi alla fine anche lì c'è il mercato, non puoi rubare quello in modo arsenale, no? Sì, ce ne sono pare che hai capito, si cercano soldi, hai capito, fa campana gratis, a casino. Ma io qui sono, ci provano, signori. Basta che ne beccano uno che già è andato nel portato, gli fanno dorare, da lì inizia il gioco, capito? Pieno, pieno, pieno, pieno. E appunto per quello, siamo a Conte, siamo. Poi sono tutti adesso, perché con questo coronavirus sono a passi tutti adesso, grazie. E perché la gente non sa cosa fare, fa telefono, chat, c'è il banner, capito, annuncio, il sito, tutte queste cose così, sono attaccate a queste cose, non vedono l'ora. Poteva adesso andare a Falcabone con su quella baglia a farsi vedere il culetto. Asso, io oggi ho sentito il panico. Sì. Ebbene, forse è trovato la cosa. E sai che non te lo so dire? Ma la chiusura, deve stare attento, sono giochi strani, giochi brutti. Allora, io mi vado a letto a lavorare, per carità, detto, ma quante ore fai stasera? Spero di andarmene via alle 10, ha detto che non ci venga nessuno. Ah, ebbene, lavorato una volta. Sì, stamattina ha lavorato. Non ha fatto il tubo, non ha spostato le tavole del nulla, non ha fatto, come si dice, pulizie per sanare tutto, non ha fatto niente, ha detto. Ha detto che lui apre così. Hai giocato, allora si vede la prende buona già. Sì, che è un casino, però perché non sono cazzo. Ah, si arrangia, si paga la busta. Soldi ne ha? Sì, penso che ne abbia soldi. Allora è a posto, si paga la multa ed è a posto, e vi apre. E c'è stato da oggi, capito? C'è vanno lì. Dice, speriamo non ci venga nessuno, ma è tanto a mangiare pizza e a corso. Ti immagini mangiando la pizza con la mascherina, come ti va? Neanche un metro di distanza uno all'altro. Ma il studiato la mangiamo nel tavolo, oppure la mangiamo appoggiati, la mangiamo al taglio, insomma è entrato. Nel tavolo mangiamo, nel tavolo. E i tavoli sono più fare mangiare a casa, così? Che via? Non fa, non fa. Che se mangerà, se no se la piglia il Napoli. Prova. Prova. 9:20. Radio compressa, scusa. Appena compressa e basta. Sì, vabbè, glielo fai sentire, sempre questo, quello non è il problema. Però ha migliorato moltissimo, adesso ti capisco. Ma non so se trovo le bandatore o quello. Se stavi provando in banda laterale stasera, su 40. Ah, capo. Apro un brindio. Aspetta, guarda, devo già niente subito. Vado a beverarmi. Vicino deve essere, perché di solito è sempre attaccato all'audio, infatti. C'è il trasformatore di vicino, vicino all'audio. Sì, c'è il trasformatore, c'è. Deve essere come la Fayette Maestro, che esce all'audio e finisce direttamente nel trasformatore. Guardati l'antenna, Fabio. Guardati l'antenna su WhatsApp. Filmata, guarda. Deve essere arrivata adesso. Quella è la tua bella, eh. Hai visto? Cavolo. Ti può passare un'antenna, ciao. Che povoascia. Cazzo, non più bello, stanno... Di brutto, adesso dobbiamo anche portarmi in tutti a casa, figurati. Sì, ya. Vabbè, Fabio, da che... Adesso chiudo. E poi domani mattina ti chiamo. Così... ci pigliamo qualcosa al bar e andiamo a recuperare qualcosa. Figli a casa, non capisco quello che hanno, ma come ci vai tu? Capito. Non avevo capito di cambiare di come, però potevo andare insieme, capito? Così magari devo passare. Sì, andiamo assieme noi, attiva, si chiama appena mi sveglio, così ci mettiamo d'accordo, ok? Basta, caro mi mattina, allora, quando non sei ancora ti diverso il tuo, come si diceva un periodo ai vecchi tempi, alle mie parti, agli amici di blocco. Infatti, vabbè, allora, domani mattina, ciao, ti chiamo io appena mi sveglio. Ciao, ciao, buonanotte.